fritta. Ora, con funziona? 1, 2, 3, funziona. Dice funziona. Funziona, questo funziona. 1, 2, 3, prove tecniche di trasmissione, come si suol dire. Funziona, funziona. Sono pochi anche, vediamo, questo da poco, 4 watt, poco più di 4 watt. No, 15, sì, già va bene. Ciao, buonasera. Ciao, caro. Stazionario è zero, l'antenna sembra che vada bene, rispetto alla mandorla, che quando piove non si solleva nel stazionario. Un po' invece leggermente si sollevavano, questo invece sembra più, me ne frega nulla. Sicuramente la mandorla tua, perché stava dicendo toglimi che non ce la faccio più a rimanere qua. Io non si solleva niente. 1 e 1 1 1 e 1 0 0 90 0 95, manco 1 1 0. Piova non piova, vento, ghiaccio, sempre così. Va bene, no, io sto andando con lo Saturnecco, 10 watt, microfono e tunnel più 3B. Sì, va benissimo, è sempre molto bella amplificata, sta funzionando bene. Ok, va bene, adesso lascio un pochino andare, questo qui intanto stavo facendo le cosettine su un programma sull'altra scrivania. Va bene, rimango in ascolto, rimane così a scaldare questa carriola. A dopo. Gappa, va bene, anch'io sono qua in stanza, sto facendo cose. A dopo, Marco, ciao. Ciao, fatti fare un caffè e segnala conto mio. Va bene, adesso glielo dico. Eia, poco zucchero però, perché non fa bene lo zucchero. Poco zucchero. Va bene. Gappa. Ciao, ehi, Nara. Certo, sto provando il piace. Come modificato che ti avevo detto che avevo fatto quella sera. Niente, come? Ah, non ti compri, sei tutto impattato, fortissimo. Cosa stai usando? Aspetta, io abbasso. Il pace, avevo 23 canali modificato. In pace. Ehi, ti avevo detto che questo tipo stava venendo in pace, non sapeva lì se funzionava, però sapeva che era modificato. Adesso c'è forte, un bel forte. Che cazzo era già zero lo gozo del microfono? A zero ce l'ho. C'è anche l'eco questo microfono. A che l'eco? Schiappa. Ehi, ammettila uno al microfono senza eco, bravo. Allora, adesso è chiuso, così è a 1:30 sarà. Ah, vabbè, bombe. E che pace è, ma veicolare? No, quello da base, ti avevo detto che mi avevano mandato questa foto, e infatti mi hanno mandato sia la radio che il microfono. Perché sapevano che era modificata, però non sapevano se funzionava, perché adesso mi ha detto io non ho antenna, non ho qui, non ho la legittima, allora mandamelo e io dirò bago come non funzionante. E hai tanto bene andendo. È un 23 canali, ma come me la fotti? Ma com'è? Come quello che hai dato a me? Simile a quello. Esatto. Chi è meglio di quello lì? E io, Sandra Nunada, e ce l'avevano modificato un ragazzo di Treviso, tanti anni fa, forse quando guidavo Wab di Gizbu, guarda, perché a un punto se aumento esci troppo voci, e a 1:30, top. Allora, adesso mettiamo l'eco, vediamo un po' se c'è l'eco, così io non lo so. No, non ce n'è, ma il microfono è normale, del pace, il suo originale. No, è un microfono con l'eco, come non c'è l'eco? Guarda adesso, perché c'è la di trimmer qua da regolare. Non c'è l'eco? Sì, adesso già c'è, ma sono meglio senza etto. No, esce bene, esce bene. E quel problema là lo fa di alternata, no? No, questo non lo sta facendo. Non lo sta facendo, non gli ho messo neanche una massa, niente, ho collegato e boh, perché il microfono era già con i suoi attacchi. E un po'. Allora, così è a due il microfono. E un po'. Sta già andando male? Se vale un MC60, bella corposa, è un bel forte. Se sollevi la voce rimane un po' impastata di quanto è forte. Allora funziona bene, dai. Prova, prova, cicu. Sì, va bene, va bene. Sì, è come il 2008. Il patch 2008 base. E com'è in condizioni come quello mio, nuovo? Allora, così, praticamente, sì. Sono appena nei fianchetti, sai, classico di radio. Proprio una cacciata. Aspetta che mando la foto. No, mio nuovo, una fiacchetti. Bello color legno, bello. Bello nuovo. Vabbè, io lo uso come MVP5, con il microfono a mano, non l'ho mai provato. Questo ti lo vuole, lo voglio fare fuori. Funziona tutto. E mi stai dando conferma tu. Guarda il segnale, guarda, credo che siano 3 watt. Al wattmetro mi segna 3 watt. 9 più 20, sì. 3 watt, 9 più 20. No, ma è bella la radio, c'è una bella ricezione. La trasmissione è buona, se è in buono stato, si può dare, sì, scusatemi qua. E io ce l'ho. È nuovo. Lo uso poco, ogni tanto lo accendo ricezione così, come faccio agli altri, però da quando c'ho il Galaxy uso sempre questo. Sì, non è troppo. Gappa, se che non fa aumentarlo di più, gappa va bene, allora se non andato la foto, infatti se guardi è proprio identico. Va bene, gappa. Che foto mi hai mandato? Ma lì c'è un microfono a tavola. Cazzo è un microfono di astronauti. Sì, è bellino però, se c'è anche il modulometro. Materiale nuovo grosso. Ah, questo è un Savelta. Non avevo mai visto questo modello del Savelta. Questo è il Master Pro. Con l'Ecco e RGB, questo lo faccio sentire, perché questo c'è dietro il pesantino della RGB. Se che funziona, non lo so. Questo pare che diventa una gattarella, si scende bulloni. Perché sta gormeggiando dietro per il tassino del Roger Bip. No, vabbè, lascia il Roger Bip. Almeno si sa che stiamo usando i barracchini. Con un po' di eco come invece? Lo posso lasciare? Sì, lascialo stare così che va benissimo. Sì, io pensavo che questa radio vintage non si potessero manco modificare. Posso modificare? Non si può modificare, chi deve essere all'arte, già. Tutto si può fare quando c'è chi le sa fare, però, capito? Cosa? Dove mando le radio io? Non le conosco, no? Non le modifica. È pieno di baracchini che sta facendo. Quello è bravo veramente, lo stesso, mi ha detto che ne fa conto sempre, lo stesso. Gliene capitano quasi tutti i giorni. No, manca anche a me, infatti. Mi ha avvisato lui quando mandare il 4.30, gli ho scritto quando mi ha detto lui, perché stava finendo delle radio call. Secondo te non arriva domani la radio? No, già arriva. No, ok. Minimo sempre 3 giorni ci metto. Minimo. Vabbè, considera sabato lavorano. Sabato lavorano, mi ha detto quello che ha spedito il pacco. Ho spedito quello di mattina alle 9, capito? Quindi conta venerdì, sabato, lascia perdere domenica, lunedì, arriva martedì. Se sabato hanno spedito, sì, capito, perché se no se non saranno tenuto qua. Allora dovrebbe arrivare martedì, sì. Vabbè, basta seguirtelo, facciamo solo il numero, così sai dove. No, no. Lavoro, lavoro. Ho finito venerdì mattina all'apertura, sono stato il primo. Poi c'erano altri due, dovevano fare dei pappi. E alle 11, a un pare, o a mezzogiorno, non so, passavano a prenderli, quindi è partito direttamente venerdì. Quindi conta venerdì, sabato, che hanno lavorato, l'azienda lavora il sabato, domenica no, lunedì, quindi oggi, e domani è in consegna, domani è in consegna. Ehi, ehi, ah, tanto non ne ho fretta, non mi interessa, no. Non ce ne ho più intanto di niente. Appena arriva le dà una lineatina, una sistematina, una pulizia. Per 10 anni che non la faccio fare niente a quella ragazza. E poi quando me la sferisce, la metto lì. E io, per carità, a che ore so? 6:15, ehi, mia figlia mi fa un quarto d'ora zarra. Ci fa le pulizie e poi rientra a casa. Guarda che da oggi sono fino alle 6. Speriamo che da giallo, cazzo, andiamo avanti e non torniamo indietro. Ma stavo guardando, da 75 siamo passati già a 100 contagi, cazzo. Ma roba da matti. Ma infatti dico, ma se non basta, continua a fare arancione. Che inutile che tu vado a vedere una curva, andare appena appena in discesa, subito tutto giallo. Ah, rimane così un bug, no? Io so, però se non fanno lavorare, è un casino. Maria ci stanno mettendo capo e cavoli, quindi bisogna lavorare, sennò è un casino. Sennò è un casino, caro mio. Kappa. Vabbè. Cosa stavo dicendo? Niente. Vabbè, se vuoi attaccare l'altra, non c'è un problema. Subito attacco. Stavo facendo scendere un po' questa, così da dargli un esito, insomma, un esito positivo. Mi ha detto prova, vedi un po', va bene, kappa. No, non viaggia bene quel bacio. No, ma anche il mio, c'è solo quel, che però non lo senti in trasmissione, non lo senti, però quando lo accendo c'è quel rumore di alternato, deve essere il trasformatore mezzo andato, però solo in ricezione lo fa, quando invece picchio la portante non fa niente, capito? Però ho l'MB+5, quello che hai fatto la connessione tu, tra l'altro anche modificato con l'MB+5, però già c'è una bella ricezione, esce bene, un pochino gracchiantina la modulazione, ma io già vuoi. Sono radio di 40 anni, per carità, già va bene. E infatti gli alimentatori erano quelli, probabilmente basta cambiare l'alimentatore con quei switch che vendono oggi, silenziosi, piccolini, come questo che sto usando io con l'altra radio uso, questa vabbè a 220, ma l'altro uso il switch quello senza strumenti da 50 ampere, vado benissimo, anzi ho giocato di buon vento, gli ho attaccato un termometro, capito, e così è sempre sotto controllo. No, io in pratica di quelli a 50 ampere ne avevo due, li ho dati a Gigi, a Vulcaneddo, e me ne ha fatto uno a 24, forse me ne ha fatto con quei due lì, ho già comprato tutto il baravan, interruttore, i connettori, rosso e nero, eccetera, lo strumentino, sto cercando un case, infatti l'ho tafugiato se ne aveva, però mi ha detto di sì, ci ho guardato a vedere, perché l'ho telefonato, e invece sono piccoli, quei case che servono per assemblare appunto gli alimentatori, eccetera, non ci stanno. E allora devo andare alla Elco e prendere una di quelle scatole in plastica, li metto lì dentro, faccio prima tutto il lavoro che c'è da fare, che c'è già il chiavi, di tutto già tutto assemblato, ci va la spina, l'interruttore c'è già, e dopo lo vernicio, una volta che è chiuso dentro, lo ventola, tutto assemblato, già assemblati sono fascettati uno sopra l'altro, tanto sono uguali, tutti e due a 50 ampere, lo chiudo, lo vernicio di nero, e lo metto là, da una parte per alimentare l'RMI da 24 volts, delle A1000, e lo lascio stare lì. Tanto adesso non mi serve, che non voglio più nulla da alimentare, tutto dentro l'armadio. Però ce l'ho. E poi ne ho altre due, che sono uno da 30 e uno da 40 ampere, sempre di quelli lì, di quelli cinesi, capito? E funziona molto molto bene. E poi vabbè, c'ho il Diamond da 50 ampere e il Proxer da 60 ampere. KK e K di Roger. Ma no, poco bene, guarda, io ho tirato il 706, non ricordo manco il bello, vabbè, 50 ampere questo. Sì, questo mi ha mandato la foto, quello è il mio, da 50 ampere. 50 amp, però non è comprato qua a Sassari, a me me l'avevano ordinato degli alimentatori, alla RS, me l'aveva ordinato Andrea, anzi, veramente me l'aveva ordinato il dottor Pinna, 50 ampere, 25 euro, 20 più 5 di spedizione, è più massiccio ed è anche più grande di quelli che vendono qua ai cinesi. Allora, questo solo per comprarli quando mi servono, perché molti di questi modelli uguali, ma molti, hanno problemi di tipo rientri, QRM alto, capito? Così, allora questo me l'ho tenuto come venditore, gli avevo fatto prendere uno, infatti anche a Luca, gli ho detto prendilo da questo che non sbagli, infatti l'avevo preso anche lui, ne avevo preso a Gian Maria, se vanno tutti bene, se dovessi prenderne qualcuno, cortali quindi zero, se dovessi prendere qualcuno lo riprendo da lui. E quello è il prezzo, no, a me 20 più 5 di spedizione. 25 euro ho pagato, ed erano arrivati proprio a questo amico di Mattore, non l'aveva dato. KK, no, già funzionano bene, solo i soffei da vedere, meno male io no, già non si vedono gli alimentatori. Vabbè, il Diamond Prox già si vedono, ma sono in fondo, una base a parte sotto la scrivania, di fronte, vicino al quadro elettrico, il quadretto che ho fatto fare. Ehi, ehi, io sono 6:10, ma Massimino che sei già uscito, vediamo se entra stasera, ma detto che già si faceva sentire. Sì, guarda, stiamo andando là sotto e qualcuno l'ha pagato 28, 150 ampere. Mi sto mandando la foto di quanto l'ho pagato io, infatti gliel'ho mandata la foto. L'ha detto danni tutti, 28 euro. Aspetta, guarda, se non mi credi. Apri la foto e guarda il prezzo. Sì, sì. L'ho pagato, sì, come quello che ho io, uguale. Ho inventato le trime, ho suonato le 12 volte 50 ampere. Io 15,99, sì sì, è così. È questo, uguale, precisa ed identica. Non ci sente nessuno, abbiamo controllato Gianni con questa pace, faccio mine patate, così poi lo stacco, che non sono per il vintage io. No, non c'è Gianni, no, ci siamo sentiti al telefono e doveva andare fuori Sassari, aveva delle commissioni da fare col figlio, niente, non c'è, se non è già rientrato, ma non penso comunque. Ma quindi ti ha dato quella radio con quel microfono, con quella Salenta Pro, Master Pro, sì sì già. Master Pro, che c'è l'FBP. Ma invece quello che c'è tu cos'è di Salenta? Il Plus. Ah, Master Plus, sì. Ma lì ci va più ecco, ma cos'è toccato? Più bippi? No, niente ho toccato. Più bippi, una di bippi, certo sante, è un off e buco. Ah, ecco, non si sente di più. bene, dice molto bene, una bella modulazione, bella corposa, va bene. Poi quando ne avrò voglia gli attacco quelle capsule là, quelle grandi che ci toccano, a vedere che dovrebbe spingere ancora di più. E si conferma, e si conferma, KK. E che sono giganti. La bobina giù ce la farà buca, perché qua dentro ci sta solo quelle piccoline rotonde. Buh, non ce ne stanno altre. Già l'ho visto quanto è sottile. Già l'ho visto. No, va bene. Qui si avviene una... ordinato il filamento per la 3D, per la stampante. Invece a vedere a che cavolo di... Dunque, l'ho ordinato venerdì. L'ho finito. Ehi, ehi, andava, andava. Ciao, cava. Ecco, prova, ecco adesso, 1,259. Allora, questa dovrebbe essere la regolazione dell'eco, della velocità. No, va bene, perché qua c'è altri pulsanti. No, sto regolando la velocità, guarda, non cambia niente. No, non ho notato nessun cambiamento. Allora, adesso a zero, adesso al massimo, di nuovo a zero, adesso metto quello dell'eco. Non lo so. No, c'è qualcosa che ti sta sfuggendo, guarda che ci sia qualche altro interruttore a qualche parte. No, sto facendo con il trimmer. I due cursori. Niente, non cambia niente. No, adesso sì. Mi sembrava strano. Adesso c'è l'eco, sì. Bellino, già va bene. Però mi ha detto che questo qua non fa niente, guarda, ma così. Non mi sembra che sia la velocità, forse. Adesso al massimo, la velocità. La modulazione a 2. Devi parlare e muovere quello che... a vedere se... che cos'è quell'altro cursore. Guarda, adesso al massimo. Adesso è a 0. Niente è cambiato. Sì, e quello aumenta, l'eco lo diminuisce. Anche un bellino come il microfono. Sì, vabbè, anche in buone condizioni. No, vabbè. Ma le piove. Ah, io un po' che ti rubi il secco, cosa hai detto? Ho detto, non piove. Ma piove? Sì. Ancora devo dare a tutti, ma un po' che non ci metto io. Domani no. Domani non è adatto acqua. Se non è al contrario, dove va a piovere oggi e piove domani. E il vento c'è, maledizione. Forse per quello. Il vento di maestrale, forse. Ha spassato un po'. Ciccucciù. Antonia. E te bara? Attenta, Antonio. Ah, senti, sta come te lo bidire. Come il bip di Antonello? Aggiunta, senti visto a Pomponio, come il PD. Ah, sentite come il PD, lo so. Ma mi ha detto... ho sentito che non sta bene Antonello, non è in forma. Non si che aveva l'influenza, lui era a letto, così ho sentito. Ai, ai, ai. Pensando, mica di gustare la lisi, tata. Ehi, vabbè, stai sempre in giro. Anche col tempo brutto, capito? E quindi sicuramente l'ha fottuto l'influenzamento. Sì, proprio così. Ah, ne hai messo il blu. E sotto sono attaccate, sono adesive. Sotto ci stanno male, eh. No, vedi come si vede bene la luce, lo smette, tu sei preoccupato. Non è di quelle cagatine che mettono. Questa è molto bella, infatti ce l'ho anch'io così. E non è pesante. Anche se aumento, bravo, anche la motorometra va su. Ma questa è la grande. Anche il motorometra si spaventa del sapere. la braccia, sta spingendo il motore, ma tra il pace sempre, tappa. Il pace, ah io cazzo, marino, il 705 da MC 60, cazzo. Non è un bip a vedere. Perché? No, ne hai tolto. Ma no, ecco, so mi che spinge un bel meglio. Adesso poi la MC 60 un bel. Adesso sotto, ti faccio la foto, visto dove? Sotto la L, appena più avanti della L, a metà, prima di la metà. Subbe. Guarda lì dove la, ti mando la foto. Prima era sotto la O, quando mi hai detto di abbassare. Adesso l'ho messo sotto, appena sotto la L, abbassa, spinge. Spinge, come si spinge? L'avevo passato perché mi ha detto che stava impastato. Ehi, anche appena puoi abbassare. Quindi io. Adesso sono andato sotto la U. Ecco. Così è sotto la U. Non è cambiato niente, sì, perché me ne accorgo dal modulometro. Sì, mi ha abbassato appena. Va bene, lasciala così, lascia. Questo è buco buono. Ah, io fammi sentire l'altra con la tattoia. Ah, sì, aspetta. Cioè, senza l'adattatore, col 60, vedete. Siete 06 col 60, vedete come va. E poi stamattina no, ero in fretta e non ti ho dato retta. Io fammi sentire. Allora, vediamo un po'. Come è stato bene, sì, tutto a posto. Ok. Alla grande. Ascolta. Un pelino, ma proprio appena, dimmi chi glielo puoi dare. Aspetta che entro nel menu. Allora, a 6, a 5, va. Guarda, davvero c'è un impatto. 1, 2, 3, prova. Alla grande. Scusa, lascio così. Per me la puoi lasciare così, poi bisogna vedere i tuoi vicini cosa dicono. Il vicino, poi riesci un cugino. E più vicino a me Gianni. Bene, sì, così è regolata bene, forse ce l'avevi appena troppo bassa per la tua voce. Così è perfetto, ma a me al massimo, appena l'hai aumentato. Sì, poco, aspetta. Aia. Vai WhatsApp. Perfetto. Ottimo, va bene. Non ti chiedi assai parole, che spinge un bel mio. No. Ottimo. Ascolta, il 60 poi sì, ti avevi rimesso a posto le connessioni. Già ce l'hai a 50, K sì. Sì, sempre. Va bene, ottimo. Ottimo lavoro hai fatto. Meno male te l'hai rimesso a posto col microfono, è un peccato tenerlo. Usare sempre l'SM20. È più corposo il 60, capite? Iezza. Ti faccio sentire, vabbè, l'avevi già sentito nei giorni scorsi tanto l'SM20. No, io l'ho già sentito, non c'è un problema. Se ti ho detto, metti il cablaggio com'era, del 60, capito, da che da Icom, in modo che usi il 60, più bella la modulazione, niente a fare. È più bella, è più corposa, quella là va bene, però c'ha più acuti, è bella lo stesso. Ma era proprio con l'altra radio, se l'SM20 lo usi con l'altra radio, capito, magari va meglio. C'è amici. E si conferma. Massimiliano Bulldozer. Dove sei? Con chi sei? Sei uscito a lavorare? Adesso anche i bar sono già tutti chiusi, praticamente. Uno non piace la droga, anda a farsi una birretta. Bravi camuri. Un po' che la vedi sbirretta. Ma con me... birrette, no? Già chiuso, tutto chiuso. Tutti a casa, tambala e tambala. Comunque hanno chiuso un sacco di bar. Cazzo di Martorino, solo il Piazza Castello, sotto i portici, cioè... perché non va via il Batturino? Tutto risarrato, tutto in fallito, boh. Il Batturino è storico, non capito, io non ho mai capito perché ha chiuso quel bar. Ci sono morti dei padroni, cosa ne so, in Moccambo, via Roma. I Bartoli ci hanno chiuso, davvero. Hai detto bene, questo Batturino. Minchia, era la meta di quando eravamo ragazzi. Appena arriviamo all'emiciclo, subito al Bartolino. Infatti, c'è strano, ma anche gli altri che ci hanno fatto i portici, ci andavano tantissimo quelli, soprattutto col turismo. È una cosa un po' strana per tutti e non lo so, non lo so, non lo saccio. Sì, non stanno andando più forse come gli anni scorsi, no? Naturalmente la crisi che fa tutto il lavoro, maledizione, perché sembra così, ma a fine mese se uno non si regola sta andando a rubare, ma da gira a fine mese non è più come di prima. Non c'è più gente che sta buttata al bar, no? Caffettino la mattina, veloce, su chi andiamo, non funziona più vicino lui. Se qua sta pagando il cappuccino a 1,40 quando erano chiusi fuori strada, a 1,40 è venuto là di buon 1,50, non so, cazzo, appena arrivati 1,40, ma così non venire la gola non paghi un litro così tanto. Lo so, ma io spero che si torni tutto che torni tutta la normalità, già vi dico. La normalità sì, si può andare a vita, sì, se no non si può rimandare solo la recensione è peggio, e buffa, a chi non avremmo mai migliorato, pensando di fare questa cosa con chi su euro, o via. Gaiest, aspetta che mi ha risposto Massi, a vedere se entra, e mi sta facendo la luce, sta lavando le spalle, ha detto. E già entra subito Massimino Bulldozer. Massimino! Ma quella foto che mi hai mandato di quell'altra roba vintage, di vera blu sereniale, sempre lo stesso proprietario di questo pace? Cappa. Però è brutta quella lì lo stesso. Beh, non mi arrisci. Ma non hai provato se funziona quel lineare. Come ci messi a due valvole, a una valvola, boh. Ah, cazzo, non ho mai lo stesso, me ne ha regalato uno Gigi. Buone condizioni, mi l'ho tutto pulito, soffiato dentro da tutto bio di bugalo, di rana, di tutto. C'è una L509, gliel'ho messa. Credimi, gli ho messo il cavo nuovo con l'alimentazione perché era tutto magnato, tutto dolce, gli ho messo il cavo alimentazione nuovo, a 220. Cazzo, ho paura di accenderlo, c'è lo strumento sino a 100 watt, ho paura di accenderlo, cazzo, mi credi? La giovinza che ho verniciato, mi sono dimenticato di mandare le foto a Gigi. È della Ametron. Tipo il BV131, vintage, ma ha 40 anni di sureniare. Cazzo, ho paura di accenderlo, non mi credi? No, c'era pure paura con questo già, anche con i transistorizzati non ce la stare tranquilli, perché comunque sempre correnti. Finalmente con questi avvenoli, c'è per questo della flora. Ma hai c'è flora, un arrozzo. Massimi! Ciao ragazzi, ancora atterrato nella mia grande sigla, intanto la mappa ha fatto tutto bugiato in tutta la vita. Ma sempre quella girevole blu c'hai? A Londra. Sì, chissà che andando nei Gran Città che... Però gli ho cambiato già due ruote, è il peso qua, io lo so com'è. Ciao Lu. Oh, una sedia, ma avete messo i joystick anche con la sedia? Troppo. Attenzione, binario 10, prego. Ehi, già, ciao, già. Ehi, buonasera, ciao Massimiliano, buonasera a tutti, Batmobile. Camino di Frena. La Fabrioscia, va bene. Vai, c'è Luca e Sparviero. K, avanti K. Ciao Giao, dove sei? Sono in via Pirandello, dai. Sto andando verso Fredanita, mi devo comprare gli fasciati e non avevo nemmeno un paio. Ma sei già rientrato da là? Sì, sì, sono ritornato. Tutto a posto, l'hai trovato subito? Sì, sì, ho messo il tonto. Bene, e poi vabbè, mi sono dimenticato, ma già è facile con la strada. Bene, bene, avanti Luca. Libero. Come stai chiamando? Sì, è entrato anche Luca. Specifica quando rilanci. Adesso vuole entrare avanti anche a lui, siamo qua. Cos'era, gli rende una betoniera o lui? Ma state girando in betoniera? Hai visto? Ho visto che c'è un po' d'impatto. Vero? Sì. Bene, lo senti a Flipper, Massimiliano? No, l'ha detto, ci ha fatto un giro in betoniera, lo sento un po' impattato. Ah, allora ti conviene rimetterlo come era prima, Luca? Guarda, se va meglio così, Massimiliano. Allora, fa bubba. Gli ho detto, con i tuoi vicini non si scherza. No, qua lontano era abbastanza amplificato. Però in vicinanza magari vai a impastarti la modulazione. Non sei più abituato al 60 lui, eh? Sai che va da piano. A me come mi ascoltate da cuo? Santiago 9 più sì. Cava, Tante docce, svincolo Santa Maria di Pisa, via Solari. Arrivi bene già, ottima radio, ottimo segnale. Vai Flipper. Io che ne ho 30 abbondanti. Sono in via Solari, sono vicino a casa tua. 479, oscillante. Va bene che bene. Andare. Questo è il mio piccolo impianto, gata. Senza lineare, senza nulla. Gianni. Guarda che mi ha dato una foto che questo sto usando adesso, come sta andando? Va bene. Non posso guardarla perché sto guidando. Faccio 23 canali, KK. 23 canali? Sì, purtroppo. E come mai? Ha detto che era stato modificato da uno di Treviso, da un ragazzo di Treviso per la modulazione. Cava. Ciao, va bene, si sente bene, molto forte. Faccio mai canto di 60. Ma che radio è questa? Faccio 23 canali col Master Pro. Faccio la modulazione. Hai visto? Guarda quella mia, Massimiliano, 2008. Quella che proprio mi ha dato Luca. È entrata un'altra. Sono uguali, gemelli, con la marrone. Se io contano più tre, non esce così. Esce un bel bene, Milù. Ma bene veramente quella radio. E devo dirti una cosa, che migliore è questa la modulazione dell'altra che ha. Ce l'ho basso il microfono. Ce l'ho basso. Posso aumentare, guarda cosa diventa, Massimiliano. Sì, aumenta, però non diventa bella, Invece come ce l'avevi prima maledizione, bella modulazione c'è. Allora, così, dai, ritorno così. Ma c'è dei picchi stanno così. Hai visto Massimiliano? E va 3 watt che c'è la radio. 3 watt di portante bianca, ma poi quanto spinge? La notte arriva. Fatelo bene, la fuggitolo. No. Ferma la cosa pura. Il primo che viene a prendersela che mi dà 150 euro, radio e microfono. No, va bene, ha voglia, fa barla. A me il TAR non è arrivato, vanno i biglietti in giro, Massimiliano. Ma tu non l'hai richiamato? No, non l'ho richiamato, io ti richiamo, è un vecchio rimambito mica, non ce la faceva manco a parlare, per prendere i dati mi ha passato la moglie. Ma comunque io l'avrei chiamato, ma vedete, io sto aspettando ancora il microfono che siamo arrivati d'accordo, vedi un po' cosa ti dice, no? Ma poi mi ha tolto un messaggio. Già, magari va l'Alzheimer, si è dimenticato di mandarti io. Comunque ci sono vari microfoni interessanti, tipo Turner più 2 U, quello grigio e celeste per intenderci da palmo, quello è bello. Su eBay, però mi sa che te lo fanno arrivare dall'America. No, la palma no, già. Turner più 3 di tavola. Microfono di tavola, io ce l'ho SBA anche, mi ti mando la foto, nuovo, ritirato stamattina, nuovo, l'SBA di tavola. Cava. Nuovo, molto vabbè, lo so, c'è a cambiare connessione perché c'è il clip, capito? Ma già lo faccio fare, adesso non ne ho necessità, dai. Adesso c'ho questo, uso questo. Poi devo usare anche, provare anche quello lì sul Galaxy, se va bene. Questo cos'è? Il Terra più 3? E si conferma. Fortissimo. No, va bene, va bene, va bene. Ottimo per la truppa. Il suo microfono già, ma me l'avevi detto tu. Me l'avevi sempre detto tu che avevi intenzione di montare, di mettere un Terra più 3 sul Galaxy. Però guarda che l'MB più 5 si difende molto bene. Se è regolato bene è una cannonata. Ma non c'è paragone, fra. È una diversa radio, dai. Si sente che è proprio da guerra questa. Ah, guerra noi facciamo, allora. Segnale ne ho, sì. Sì, prova. Guarda a vedere, 1-2-3, 1-2-3, come fa Marco Condor, 1-2-3. Io ti ricevo 9-25 qua per Danida di fronte a Terra Nova. Buono, buono, tu sei abbondante, oltre 9 più 10 adesso. Va bene, va bene. Stai toccando punti anche di 9-20, però con QSB perché sei in movimento, già va bene. Flipper! Sì, ho riattaccato il 705. Ehi, ehi, lascia quello, lascia. Non aumentare il microfono. Se no Massimiliano te lo faccio abbassare, lascialo così. Vabbè, me lo pone mura a manetta, non ho mai problema. A me ti puoi scimmura a radio, lo sai. Senti, scusate il messaggio che oggi manda da chi, davvero? Già l'ho visto, l'ho visto. Fammi riprovare questo microfono che stavi usando prima. Oh, Luca, cambia... Intanto c'è l'adattatore, prova a mettere l'SM20, che già ce l'hai il clip, quello che ti ho dato io. Metti l'SM20 nel 706 a vedere. E così lo sente Massimiliano, perché io stamattina l'ha fatta la prova, perché ha cablato nuovamente il 60. A me piace più il 60, è più corposa. Guarda adesso che ci sei tu, Massimiliano, a vedere cosa ti sembra l'SM20. Aspetta, prendilo così, giusto per fare qualche prova, insomma, per passare un'oretta. Visto che siamo qua. Gianni! Eia, dai, direzione Preda Nieda, tutto da Cincin. Preda Nieda, Nieda, ma Nieda, Nieda. Nieda, Nieda. Vabbè, non si può raccontare. No, cominciare. C'è Caterina Facci Nieda, quello sì, quella già la conosciamo. Che la video era di Paolo Facci Niedu. Cava cava, oggi è pieno di gente in giro. Cosa? È pieno di gente in giro oggi, ho detto meglio, riusciamo a mettere in contatto. Infatti stai tranquillo, da 74 siamo già passati a 105. Tranquilli che torniamo in zona arancione, tranquilli. Ma quella è negligenza della gente però, dai. Cosa ci vuoi fare? Va bene, bello questo microfono, mi piace. È bello, no? Quello è Master Pro. Master Pro. L'altro invece è Master Plus, così è già. Eia, adesso io scendo dalla macchina un attimo, dai, ci sentiamo dopo. Eia, già siamo qua, dai, chiama quando vuoi. Ah, io allora, ce l'ho mai detto, microfono, ma andando in America. Si fanno i massaggi più corti, forse. Massimo. Provalo. Allora, questo è l'SM20K. Aumentalo un po', poi al massimo. Da sotto che si può aumentare il buco. Ma la radio non si può aumentare. Ah, sì. Questo è il timbri che ci addice di più. Allora, va bene. Troppo. Sì, così è troppo. Diminuisce appena. Ecco. Guarda adesso, se va bene. Orecchio così, orecchio paloso mi piace di più come modulazione. Vedi, stamattina eravamo un po' in fretta. Ha ragione Massimino. Sì, a orecchio peloso anche a me mi sembra che la timbrica sia più bella. Lascia questo allora. 60 lo usi nell'altra radio che c'hai. Guarda che l'ho messo, praticamente dovrebbe essere circa 8 da sotto il microfono adesso. Sta bella, bella. Senza cosa, lui, questo è il microfono per la tua voce. Questo ti si addice molto, molto bella e spinge anche parecchio. Allora, lascio questo, io faccio quello che dove va meglio. meno male che c'ho già, che c'ho, dico, la, la possibilità di cambiare. E questa è davvero la situazione, è proprio bella bella. Sì, ma infatti lui voleva dare quello lì, tenessi 60, non da nuda. Già te do io l'adattatore, glielo dato e così, vedi, facendo le prove poi si scopre che va sempre a migliorare. No, questa è bella lui, stamattina poi ti ripeto, non ti ho dato molto retta perché ero in fretta. Però va molto meglio, sì, meglio le 60, meglio le 60. 60, vabbè, te l'hai cambiato così, lasciatelo per l'altra radio. E allora mi sistemo bene il cavo, l'adattatore, e così metto quello KK. La riprendete voi 5 minuti di standby. E lì non è che c'è da fare molta cosa, l'adattatore quello lì, vabbè, basta vedere i fili come sono, ma io non l'avevo toccato lui. Io non l'avrei toccato. Mi togli c'era l'adattatore, lo puoi usare sia in una radio che nell'altra, cosa di una futti. Sistemati meglio l'adattatore, magari fai qualcosa, non so, ma non avrei lasciato con la connessione originale, no Massimiliano? Se lo devi usare fisso sulla radio, chi te l'adattatore alla fine, ti fa nulla. Quasi forse ti può creare qualche problemino. Sì, vabbè, l'adattatore l'avrei lasciato, sì, l'avrei sistemato bene, l'avrei lasciato l'adattatore. Non si sa mai, non è da attaccabile di qualsiasi cosa e ce l'ho pronto, capito? Anche perché lui c'ha una radio ICOM, capito? Quindi cambiare lì perché è clippata. Non lo so, vedi tu Lula. Comunque questo, l'SM20 è prevale, come ha detto Massimiliano, per la tua voce prevale, alla grande, sì, veramente. Sì, no, claro, è superiore. È superiore. Brecco. Vedi, è stato il brecco, ma io te l'ho detto, mi pare te l'ho fatto anche il filmino. Quando io usavo l'SM20 sul K c'era una differenza allucinante, molto più acuti aveva, capito? È un bellissimo microfono, è stato sempre un bellissimo microfono. Avanti Brecco. Via, ciao Claudio, ciao Massimiliano, ciao Luca e poi non so chi ci sono appena acceso. Ci sono io, Massimiliano, Luca Flipper e Gianni Doppio Room in macchina che è sceso un attimino, poi ci dovrebbe essere anche Luca Del Monte che però è qui Rix. Avanti. Ciao Roberto. Ciao Massimiliano. Via, ti ha salutato Gianni, vai già. Ciao Roberto Quadrato, come mi ascolti? Da Preda Nieta, cambio. 9 più 20 Radio 5. Buenos Aires, qua sono dove c'è la Lidl a Preda Nieta. Qualcosina è più di 9 più 20, comunque la radio è chiara. KK, va bene, andate, prove tecniche e trasmissione. Va bene, adesso passo dai cinesi in plin plin, perché sono andato da un amico adesso e poi passo dai cinesi, mi bidio i bicicli e poi sto ritornando a casa, a domo. Bene mera, bene mera, ciao Robè, buonasera, ben sentito, vai Massimi. Ciao Robè, stavo aspettando, va. Stavate discutendo. Ciao Robè, ben entrato, buonasera, va. E anche io l'ho sentito a Luca, sta uscendo bene, è molto chiara la sua voce, va benissimo. Luca, esci meglio con quello che con quello più grosso. No, già, c'è sempre la radio grande, però stavo provando due microfoni, l'SM20 e l'MC60, capito? E per la voce sua fa meglio l'SM20. No, ma col faccio usciva un bel bene. Lo so, è uguale a quella che uscivo io. Precisa identica, se no gliel'avrei presa, ce l'ho uguale, ma la da Edo, precisa identica, io la uso con l'MB+5, ogni tanto l'accendo, però quel microfono mi sa che va molto meglio con quella radio, vediamo. Avanti Luca. Luca si stava finendo di saldare qualcosa forse. Ah, è vero che ha detto che sta mettendo a posto il microfono, avanti Robert, riprendi. Con la pelliccia l'ho messa da parte, mi l'ho scesa giù e l'ho messa in officina giù, era dall'altra parte, l'ho scesa giù e così c'è il codice. Mi sembra sia 845, vabbè, c'è tutto scritto. No, passo, prendo il barattolino e vado direttamente con quel barattolino, lo passo il massimo. Oh, Roberto, altrimenti faccio qualche errore e poi mi danno la tinta diversa. Ti chiamare, ci vediamo domani. Ehi, non c'è problema. Vai Massi. Ehi, è positivo, ma te l'ha fatto anche a me, vabbè. E già passo anche io. Che colore è tua? Se te la vuoi fare niente, la tua, bianca la macchina tua, Massimiliano. Bianca, bianca. Ora arrivi, dai. Ora arrivata. Adesso vado un po'. Ma se mia moglie non è un'altra, non si riuscire a cambiare. Perché la puoi cambiare la musica? No, perché non la sono più soldi sopra, ci vuole un po' di soldini sopra, va. Cosa c'è di rotto? Allora, di rotto ci vuole il ponte di dietro, ok, il completo, tutto il ponte di dietro, poi ci vuole un semiasse davanti, che costa 370 euro, lo danno solo originale, di concorrenza non esiste. E poi ci sono altre cassatine che ci vuole l'intercooler, ci vuole un po' di roba, va. Allora, il ponte di dietro, possiamo vedere anche da Macedo, dove vuoi tu, ti chiamo io, se vuoi mi interesso io, ti danno anche il semiasse, tutto un'entrata, una l'altro giorno, la Macedo, nuova, multipla, seconda serie, che sono uguali tra l'altro. Poi l'intercooler, che cazzo te lo danno, 50 euro lo puoi pagare un intercooler, non di più. Ma c'è il meccanico del movimento, capito, ancora non ha avuto. Come non ha avuto? Non l'ha provato, capito. E quando è entrato è stato tutto da poco, allora? L'ho vista la settimana scorsa, dai. No, anche perché gli ho detto di fermarsi tutto, perché poi anche se spendi poco con questi tipi, meccanico, e ballo varie, boh, non ci vuoi buttare altri soldi sotto, basta così. Io ho già buttato tutti sopra questa macchina. Boh, quando si va, ma dove è nel bidone, non mi racconti di nulla. Sono una sua Torino, ce la stiamo un po' contrattando, va. Guarda, ne stavo facendo prendere una a un amico, scusa Claudio, il monopulio, 76.000 km di un amico carissimo, già lo conosce Claudio, Antonio, giù dalla UPAS, nuova, dico, questo è uno di quelli che ho, sembra uscendo dal negozio, 76.000 km, era già venduta, 6.000 euro la stava dando, che è regalata perché la macchina è fiammante, non ne trovi multipla così nuova, l'ultima che hanno fatto, e poi ha chiamato stamattina, no, non la vendo più. Se lo guardi Antonio, della UPS è fiammante, quella blu stai dicendo? No, non è blu, è grigia metallizzata, nuova, ti posso dire, allora vado a prendere Bruno, quello amico mio che c'ha il BMW, quello antico, mi ha capito che sto dicendo? Bruno Gian, ha detto bene, era già tutto d'accordo, poi stamattina ha chiamato, ha detto no, me la tengo, tanto se mi compri una macchina nuova di quella categoria non ti bastano 20.000 euro, ha detto mi tengo questa, c'ha 76.000 km, ma fatti veramente con scrupolo, non c'è uno spillo di sporcizia, è nuova, mai graffi, mai avuto niente, era un peccato, 6.000 euro, infatti la regalata, insomma. Poi sei unico proprietario, è comprata nuova, non di quelle a chilometri zero, proprio nuova, primo proprietario, non di quelle a chilometri zero, che magari è già immatricolata, ci avranno 800, 1000 km molte volte, perché le tengono come esposizione, questa è nuova. Però la multipla, io finché mi dura la mia del 2001, c'ha 315.000 km, adesso li ho cambiato, c'ho i braccetti pronti a cambiare, esogo un anno, grevo giamba, e appena c'è 5 minuti li cambio. L'unico problema della multipla, ti posso dire, sono le sospensioni, per il resto è un gioiellino, non ho niente da dirle, e i sedili che si consuma la fodera dei fianchi, infatti ho comprato già le foderine nuove. Io lo so, non dirlo a me, io avevo il modello come la tua, prima di avere questa, aveva 250.000 km, quando l'ho preso ne aveva 80.000. Se non faccio in distribuzione, ho fatto il motore, di non male, da voi me la giuro in giuda. Per prendere questa, l'ho versata per prendere questa, e adesso non costa neanche 330.000. Attivatevi. Lo so, conosco gente ne ha 600.000 di più, quei motori sono indistruttibili, se ne scende a pezzi la macchina, però il motore è un treno, poi poca manutenzione, l'importante è che li fai le manutenzioni ordinarie, li cambi l'olio, i filtri, stai attento alla distribuzione, ogni 80.000 km conviene farla, anche se ne hai fatto di meno i chilometri è sempre bene farla, perché la cinghia piano piano inizia a deteriorarsi, anche se ne hai fatto 30.000 c'ha 10 anni, conviene sempre farla la distribuzione, eviti dei problemi. Io finché mi dura, a parte non aggiungere la lampada, sono soddisfattissimo di quella macchina. Ma Ah, lo stesso motore della mia, no, ma ci vediamo, solo io ho più cavalli. Io ne ho 336, lo stesso. Non c'è una perdita l'olio, ho fatto cicla di distribuzione, ho fatto tutto. Alternatore nuovo, mio Roberto mi ha fatto fare i braccetti, ho messo i braccetti, le cuffie davanti, gli ho dato una sistemata anche di carrozzeria, è ancora da finire, ma penso che chi me la deve fare già me la fa presto, infatti sto prendendo anche la tinta. Ah, lo stesso motore della mia, no? Ma ci... Allora, lo stesso motore, solo che la mia è 120 cavalli, la tua cos'è? 140 o 150? Boh, qual è? Non lo vuoi 150 la tua? Sì, il mio è 150, 16 valvole, multijet, multijet M. Poi dico, multijet, non è M, non è nuda, ma... 19 multijet la mia, capito? La mia è 120 cavalli, ma non lo stesso motore. 9 valvole la tua? E boh, non me lo ricordo. Invece quella di Roberto è quella JTD, ancora meglio della nostra. Sì, sì, sì, quella JTD. No, la mia è multijet M16 volt. Un bestiolino ancora, eh. Si solleva ancora dritta, già funziona. Poi ti ripeto, proprio tramite Roberto, tramite un suo amico meccanico, mi ho fatto fare i braccetti, un cuscinetto davanti, le cuffie nuove, non mi sarà bene a posto, lei è un gioiellino, la mia va benissimo, adesso di sia le carrozzerie all'interno, ma sono in pelle nuova nuova, esternamente sta prendendo nuovamente quota, e il motore grazie a Dio non mi posso lamentare, la parte meccanica è a posto, avevo messo anche gli ammortizzatori nuovi. Già va bene, non avevo già giambi, lo stesso anch'io, la mia c'è 330.000 km, cambiata la centralina, mamma mia, ogni zocco, bicho, madre de Dios. Avanti, Robè. Oh, se interessa qualcuno, una 147 di motore, perfetto, gli ha fatto tutti i lavori, gommata buona, sospensione, tutto quanto, qualche fesseria di carrozzeria, piccoli colpi, 400 euro le fanno un amico, perché sta prendendo un'altra macchina, solo che due non le può tenere, ha detto, mi danno 400 euro e ti la bussano, è buona, del 2001, non è nuova, c'ha, mi sembra, 250.000 km, GTD, sempre, come la mia, però la macchina, il motore è in ordine, uno che vuole una macchinetta a spendere poco, va più che bene. Sì, cazzo, a spendere poco 400 euro, se ti sento il passaggio di proprietà, siamo a 1100, a mantenirla, a fare la simulazione, io voglio fare 500, ma non conviene. Vabbè, il passaggio devi fare comunque, anche se te la regalano la macchina, quella che hanno regalato a me per dare alla mia figlia, me l'hanno regalata, ma il passaggio 370 euro li ho pagati lo stesso. E ti ho capito, ma quella è una macchina, cioè del 2001, è già da rottamare, non c'è 47, cosa bisogna fare? Cioè vai 1500 euro la mia, che è del 2004, cosa è superiore a quella anche. Massimi. Ma non ci vediamo, deve essere chiamato Daniele. Flipper, finito l'esalta. Flipper sta saldando, Gianni è dal cinese. Sì, Robè, ho capito, ma vedi, se avessi trovato, ma adesso non mi serve la verità, ma se mi dovessi trasferire sicuramente prenderò qualche altra 600, una pandina, macchina così piccolina, no? Non ne prendo più macchine grosse, cosa ne fai? Basta questa che ho e buh. Sì, adesso conviene prendere macchinette piccoline, trovare quelle punto, che adesso anche le grandi punto stanno dando a 1500 euro le trovi, diciamo se aggiungi qualcosa ti danno il 1300 multijet, se no ti trovi un appunto quelle penultimo tipo, non grande punto, tipo quella che ho preso la mia figlia, quelle dal 2003 in poi, quelle le trovi sui 1000 euro, e sono macchine, non consumano nulla, affidabilissime, e sono, paghi poco di bollo e di assicurazione perché hanno quanti chilowatt, insomma c'ha 44 kilowatt. Il 1200, un motore lento, non consuma molto, affidabile, non si sfascia mai. Sì, scusate che stavo ascoltando. Quello 1200 benzina 600. Telefono, scusate. Cazzo telefono, carabinieri ci ho rivitti. Ehi, ehi, sì, quel 1200 benzina, ma ci vediamo. Io sto aspettando la muglia quella di sopra, cazzo. Ogni tanto la uso quella macchina, ma guarda avanti. È del... adesso non mi ricordo che targa c'è. Non lo ricordo, comunque mi sembra sia del 2004, del 2006 o del 2007, non è la grande punto, è la punto prima della grande punto, c'ha 26.